chi mi cura non mi piace proprio. Mi voglio ricordare. passaggio? Sì, allora te, provo, mi senti? Cappa che ti sento, piazza forte adesso, che me lo sono levato il volume. Ehi, no, no, vedà. Prova, prova. Cacca, io scendo bene, cosa stai provando l'apparato? Batteria nuova ho messo. Ah, anche io stamattina in questo qua. A chi la carica? Grazie. No, Sony. È migliore che la dura, c'è. Ma l'altro giorno l'ho preso così di scorta, un pacchetto. Al volo, Sony. Già so voi. Vabbè, già ne ho altre. Dura, c'è dura di più. Non ti credere, nella telecamera la di chi sono andata alla Zinara a riguardare la lì che è carichi. Bisogna vedere come le usi, io. Vabbè, per esempio, non eri più qua, mi ha fatto 2 anni. E come le usi? Io c'ho la telecamera, cosa ti posso dire, l'avrò usata uno 6-7 ore, là. Al bar, signor, non è che lo sto attaccando alla telecamera. Beh, è normale il consumo. Dipende dal consumo, capito? Ma io mi pensavo che facessero di più, perché non è di barrasone i mani. È moderna, è piccolina, è fatta il palmo della mano. Anzi, pure più minori. Grazie, piccola. Va bene. Allora, usalo, vediamo un po'. Ah? Adesso lo chiudo, aspetta. Già sono qua. Esci fuori, cucariello. Avanti, che vuole entrare sul 10. Hola, sul 10. Gio Maria, mi senti? Oh, Gianni, ci sei? Gianni, ci sei? Buona fuscia. Senti, va Gianni Chiaramonti, basso, basso, basso, basso. Forse sta usando apparati deboli, da piccoli. Attenzione, al canale 10, c'è nessuno? Aspetta un attimo, già. Raga. Buonasera, ho sentito Gappa. Tutto Gappa e la parola, io ho fame. Che ne sono? Le 7:25, quasi buio. Adesso si accorciano le giornate, le bollino. Senza sentirti, come va? Andrà peggio, meglio così. No, anche mi sono inteso male, sono in casa e devo rimanere riservato perché c'avevo un inizio di broncopolmonite, dovrei ricoperare, ma l'ho preso con l'andare e me la sto facendo a casa la cura. Cosa? Un colpo d'aria, da sera usurato, mi sono cacciato, arriva con la pesca e mi ha crepato. Cioè, non mi manca mai, una dopo l'altra pure. Neanche la scorsa mi aveva fregato, mi ha mancato un ripiro, tutta l'ora. Chica volta di visto, mi sono capisato, ho fatto tre saline e cazzo di la lingua pura. Allora sono andato dal medico, mi ha visitato e mi ha detto che è già un inizio bello, bello che ho fatto di blocco polmonite. Beh, la sera gli ha detto no, io mi curo a casa, non ci vado. E allora mi ha tornato a cura a casa per una decina di giorni a rimanere riservato in casa. E fai burrena. Allora, mi caldo torna di da papà, l'altra volta proprio perché non respiravo nulla. Ma mi caldo che hai ammesso che ha bisogno in tempo. Devi stare attento come ti affacci, come prendere correnti, perché... Ma è ripidare, non è così. gente che ci ricoverata si piglia bronco un po' molto perché spalancano le finestre per asciugare in terra, ragazzi, e così li pigliano un freddo. Ehi, grazie per due, se tu questo mi sono gustato, mi sono registrato una ventina di voci, mi ha messo in scena temperatura, mi ha dato a fondere un corridoio, il lago che era serrato da Iannavanna e mi bruciava in cicatrici a rotelle. Sono figlia la correa. No, già lo credo. Se non me ne scende voi giù e ci può pure, se la bambina sta, e mi bruciavo in questa panchina. Ehi, guarda, uno va per curarsi una cosa e si ripiglia un attimo in mano all'inchino. Ehi, e cosa vuoi dire? Purtroppo è così. Infatti, il giorno prima mi hanno tirato le analisi, perché le devo portare dal diabetologo. E mi dici, lui, come io, vedi, faccio vedere che mi visino. Tutti i capi, tutti i valori alti, c'è anche il colesterolo, e allora è tutto in fea la cosa. Cazzo il colesterolo, non ne mangio di molti capi. E la cosa è il colesterolo, buono da crostaccio, non lo so. Dice tutti alterati, la dice no, allora già non mi sento bene, mi mancava. E mi ha visitato e mi ha riscontrato già un bel inizio di preoccupazione avanzata, rapida. E mi ha detto dovrei finire giovedì la terapia. Però domani in attiva vale mi faccio una razza che mi ha fatto impegnativa. Vai al conti, fammi vedere. Perché non è roba da scherzare. Comunque il colesterolo non viene solo perché mangi la carne, i grassi che assumi nel corpo, roba fritta, olio e tutte queste cose qua, carne grassa, pesce grasso, tutto il grasso che c'è in quello che mangiamo si forma il colesterolo. Già adesso magari cosa fritta, qualche fettina trovata e me la mangio, capito? Anche quando abbiamo fatto il risotto, mia moglie invece buttarlo a fare le polpette di riso, capito? E se mi piace, non ci sono rimane burrotti, non li brucio mai, ma una a due me li mangio sempre. Il supplì di riso. Ehi, per non buttarlo, no, è un peccato, perché poi io le faccio, lo faccio apposta, le faccio sempre un po' di più, capito? Allora io gli dico, che con quello che rimane, domani fa le polpette di riso, e allora va di così. Beh, adesso non so tempo di buttare più nulla, no? Vedi tu che vado la massa che avanza per dire la pranzo, la fa fritta, con le uova, cose, io ho sentito tanti che fanno queste cose. Mamma Badì, mi ricordo che il pane quando si induriva lo faceva in forno con tipo pizzaiola, la pizzaiola. Lo metteva prima un po' a bollire, quando era molle lo metteva in forno con il sugo, il formaggio e cose, era anche la bocca. Anche me che lo posso pure io, anche quando mi rimane la pazza, o ci metto un filo di olio, capito, me la riscaldo, gli aggiungo il sugo e me la riscaldo, mica di la l'acqua, se l'ho fatta oggi e me la mangio stanotte, un po', se mi ne avanza me la mangio domani, mica di l'acqua, questo è il tuo condimento che fai, se mi avanza domani quella io ci metto su un po' di sugo, un bel po' di così, parmigiano e delle sottilette di fontina, a pochi porro di diminuzione, un bel po'. Una bomba, anche le sottilette fanno bene il colesterolo, anche il colesterolo. Tutti i formaggi grassi fanno venire il colesterolo alto. Quando c'è colesterolo non devi mangiare né formaggi, né salsiccia, né fritti, tutta questa roba. No, come formaggio già mangio vicino a maledizione che c'è una radetta, la grubiera, quella con i buchi. E il parmigiano, qualche volta già lo prendo una formetta di pecorino sardo, lì lo prendo in piazza del Signore, da un amico mio dove c'era un bel buono, e ogni adesso me ne mangio un pezzo, ah. O se no quando vado che mi ripeta lui lo grattugio e lo uso per la pasta. A me l'unico formaggio che non mi piace è la gruviera, che è tanto, mamma mia. bamba, dolce, No, a me piace il formaggio piccante, lo so che fa male, però mi piace quello piccante e quello anche che si fa arrosto, di usino, quello lì è buono, e anche quello da tavola, però prediligo sempre il formaggio saldo. E mi hanno regalato io so due specie di paretta, adesso non mi ricordo come si chiamano, enormi, e poco lì si rubano in alta rubare una bella fetta, li metto i pomodori sotto sopra il formaggio, un po' di sale, si scioglie, ma da tanto è buona. Lo so, proprio le fatte in paese sono ben buone, io ho capito quali sono. Io mi ricordo che a Irula c'era il padre di mio cognato, c'aveva un po' di pecore, lui era minatore, si era andato a Irula lì perché aveva la silicosi, proprio la silaria buona, e ci aveva preso un pezzo di terreno, c'aveva una decina di pecore, no? E si faceva il latte per casa, si faceva il formaggio, la ricotta, tutto per lui. E quando ce ne andavamo ci regalava sempre le parete, la ricotta e il formaggio, ma era una delizia, guarda, ma buono, buono, buono. Ma io lo prendo il lunedì, una volta al mese, lì a Piazza del Signore, c'è un amico mio, mi sembra che è di Orani, il paese, di Orani. E lo sai che mi serve bene le buone perucate, io ho tutti i tipi di formaggio, prendo anche quello che hai detto tu, però non una forma, ne voglio un migliaio o un quarto, di quello piccante, e varie altre specie, no, però ho invece pigliato una forma. E anche io di quello la prendo sempre a metà forma, perché è pesante a mangiarlo, metti un piglia bruciore di terra, ma se ne mani druppi. Già lo so, ma io me ne mangio una fetta, poi se ne esagero, no? Una fetta di sanghetta di ghisso, una fetta di duale di lacro, capito? Non è, ma non è ogni giorno che proprio me lo mangio. Già mi piace, anche la ricotta fresca, anche la ricotta buccia, e sa buccia mi piace un bel, non vi dà zarizza però, Dico un aglio di ricotta mustia che è buona, ma per comprare la sisa in Vecchiarini, si chiama ricotta mustia di pinna, quella è molto buona, è una delle poche che ho assaggiato di caseificio che è buona. Oh, ci vado anche col cipollato, allora quando ci vado me lo prendo un pezzo assaggiare, o se no lo sai prima lo prendevo il formaggio, di quel calcificio che c'è nella zona industriale a Muro, ed era un bel buono lì allo spaccio, ma non lo pagavo neanche molto, tanti anni fa lo prendevo la sua appla, allo spaccio, capito? C'era anche in Urcara, quello dopo Cossuini, a Porto Maggiore, lì andavo a prenderlo per la ditta e qualche volta me lo sono comprato anche per me, me lo davano a poco prezzo ed era molto buono quel formaggio in Urcara. Non ci sei mai andato di fronte a Macomer, alla Cesa, quando giri sotto il ponte, invece di andare per Nuoro c'è uno svincolo e giri sulla sinistra, c'è un capannone, la Cesa si chiama, anche lì lo prendevo, tutte le volte mi capitava che ci uscivo da quelle zone lì, lo prendevo sempre, a forme lì me lo prendevo. Ma io lo prendo a Usilo, non proprio a Usilo, all'entrata, prima di andare a Usilo, nella strada proprio all'inizio. Salendo sulla sinistra c'è un caseificio dove lavora anche uno che era da CB, Serafino si chiama. Lo prendevo lì ed era molto molto buono, lo facevano, c'erano proprio... Hanno tutto quanto loro, fanno il caseificio, c'hanno le pecore, il posto dove mungono il latte, tutto in un capannone grande, che è suddiviso, no? Ma sono puliti, vedete, io sono entrato anche dove fanno il formaggio, mi hanno fatto visitare, mi hanno fatto mettere gli stivali, tutto quanto per entrare a vedere. No, lì oggi lo prendevo nel rettilineo, prima di fare la salita che sulla destra c'è quel frantuio, cos'è, che facevano la ghiaia, mi sembra. Appena prima di lì, sulla sinistra, c'era un viottolo, in fondo c'è una casetta, lì c'è un pastore, e anche da quello lì lo prendevo tanti anni, c'è fino a peso cubi andato, e lei lavora a vedove, sono quasi a niente in chivi, in casa, in famiglia, là. E quando mi piaceva molto, mi interessava, me lo diceva se me ne serviva, e dice, vedi, a me serve che ci passo. Sì, molto buono quello lì. L'ho preso anche io lì, e è proprio lì che sto dicendo io. Sicuramente nello stesso posto lo prendeva. Ma se mi stai dicendo che si hanno fatto il capannone, vuol dire si è fatto il capannone. Ci aveva stato un bel anno, non mi sono più andato. E vuol dire si è fatto un capannone, perché erano in famiglia, amico, questa cosa, quando andavo io, lo facevano in famiglia. Oh, il capannone c'è anche dei pastori albanesi che mungono le pecore e cose, in più c'è il personale che ti serve, ti pesa il formaggio, c'è quello per dire che munge le pecore, c'è un personale proprio, adesso è diventata proprio un'azienda agricola. Vuol dire ha fatto fortuna, perché non c'è la solo io, mi sono andato via, mi hanno sempre 4-5 macchine che glielo comprava, e vuol dire ha fatto lì diverso, ha fatto il suo campanone, così ha assunto pure gente, meglio per lui, meglio così, cazzo, così ha rimasto trovare pure un poco di niente. No, ma era un bel giorno, invece tanti anni fa me la regavano qui a casa, non mi ricordo da che paese, andavo a Bicchi a mangiare nella trattoria da Mario, non so se ci sei mai andato, nella piazzetta dove poi archeggiano i pullman nuoro, e tra più un viottolo lì nel nuore servizio, no, nella città Bicchi. E un viottolo c'era questa, la trattoria era una casa famiglia stessa, però altra volta la gente ci andava a mangiare, ho visto anche dei pullman, un casino di gente, turisti, era grandetto il locale. Un locale, un palazzo lì, aveva due piani, va via, giù e su, e ti dico, si mangiava e pagava pure un poco. E lì avevo conosciuto questo che portava il formaggio a questo qua. E io l'ho chiesto il giorno, e mi ha detto, certo, io già salgo anche a Sassari una volta al mese che ho dei clienti. E allora mi trattava, o se mi serviva me lo portava fino a qua. Questo è ancora mio, manco carriera va. E vabbè, no, ma già c'è anche me, noi abbiamo un amico CB che lo porta a Burisò, il formaggio, non l'ho mai assaggiato, però penso che sia buono, capito? Pinocchietto il Moro lo porta qua, il formaggio. Male, che se buono di Burisò è buono lo stesso, cazzo, buono mangiamo, ma è buono bruvissimo, ha voglia. No, ma tutti i formaggi sardi, per lo più io li ho trovati tutti buoni. Cosa poi se io rubrico chi vi ha, cosa per le respire, e prendo quei formaggi che vengono da fuori, ma è da fianco, che si nutre. Pure ho provato una volta a prendere quello che è morbido, quella una forma piccolina che la taglia e poi te la metti nel forno. Ma Crubello l'hai sciuscio. E sarà, come si chiama? Cioè capito che è marrone la forma. Ehi, l'ho messa nel forno, sul pane, no, come faccio di solito, il pomodoro a pezzi. Non gli ha fatto niente, non si è sciolto, se sono abbrussolito il suo gascio. Vabbè, comunque, quelli sono dei casi difficili, non c'è da fare paragoni. Comunque tu sei certo, questa ricotta di pinna, questa mustia, sia la mustia che l'altra, sono tutte e due buone. Prova la cola di pinna e poi mi dai la risposta, richiedi la ricotta mustia di pinna. Già lo so, ci vado in quel supermercato qua, sta vicino, non quello della Busimu. Vai lì. Tanto tutti i negozi Sisa ce l'hanno, non è che la trattiamo tutti i negozi Sisa la tratta. Niente, io l'ho sempre mangiata, quella è buonissima, non è salata, è proprio saporita senza essere salata. Ehi, ci faccio assaggiarla, a prenderla, così guarda se vola, provamene meglio un pezzaletto, fa tanto male, vedi se è buono. Cioè, la vostra me la faccio dare un pezzo, lei la assaggio lì, se è buona me ne voglio pure una forma, perché in casa già lo mangiano tutti qui. E anche la ricotta fresca, io mi faccio anche la pasta, me la ricotta fresca, oppure la minestrina, rapido. Sì, quella fresca me la faccio portare da uno che conosco, che ha le pecore, me la porta quella proprio saporita fatta dal pastore a fare la pasta e micidiale. Già lo so, già che io ce l'ho bovabrino. No, ma poi in casa già lo mangiano tutti il formaggio, anche la ricotta, la guglia, lì un pezzo di nera. La giubilata da avanti, mi è rimasto un pezzaretto, me la rimangia a mezzo la moglie, ma gli altri il tasto per rimasto lì, e me l'ho mangiato, già, e poi sono cose che non fanno neanche male, non è che... Molti grassi contengono, sempre concentrati il colesterolo, queste cose sono. Però le cose che non sono buone, che non sono buone non fanno male, quelle buone fanno tutte male perché sono ben condite e fanno male per quello. E grasso animale, capito? E quello lì fa vedere il colesterolo, il latte, i grassi del formaggio, i grassi della ricotta, sono tutte cose che ti biasimi, ma più di tanto non li puoi mangiare. Poi, latte ne ho un desiderio, adesso come se sta mangiando. No, no, non ne posso mangiare di latte che mi fa di brutti male. Se no, prima già lo mangiavo e ci mi ha mangiato. Ma adesso non è solo minimo 20 anni non ne mangio più. Il tè mi faccio la mattina, solo tè. Io già non lo faccio in cappuccino, me lo faccio con la macchinetta, bello schiumoso, come piace a me. No, io no, quando vado al bar solitamente il caffè si mette fa schifo, ti buoni in un dito, quello allungato non mi piace, allora me lo faccio fare il caffè macchiato e ti dico è buono. Sì, a me piace molto anche il marocchino. Se no ci metto col cacao. Bel marocchino, ma hai provato là? No, eppure me lo prendo a vedere. Buono. Sì, il caffè però è trattato, messo ci mette un'altra roba in mezzo, capito? È buono sì, ma buono il barocchino. Sa qualcosa di bar lo fa? Sì. Tu chiedi un marocchino, e loro te lo fanno. Allora già me lo prendo, adesso mi domani quando esce me lo guido, tanto passaggio a vedere se è buono, se mi piace. E ti metto il cioccolato in mezzo, è buono, ti sto dicendo che sapore è buonissimo. E mi domani che vado a farmi la massa, ne approfitto, in quel bar che c'è lì vicino a Piazza Le Segni. Me lo faccio, ma vale c'è anche la piazza, già è vero. Lo devo dire. Stavo parlando stasera con Gio Maria, poi Antonello mi ha detto entro subito, un attimo, guidato, e aspetta che è venuta gente già entro subito. Adesso apparisci tutte e due. Poi stavo parlando con Giovanni di Itti. No, io me ne sono andato a farmi un giro in moto, dire c'è una bella giornata, e sono andato a farmi un giro, dai. Mi sono fatto fumare la sigaretta, così, e poi me ne sono tornato a casa, sono andato con il leoncino, il dottore Fatti, mi trovo se vendi, a letto, cucato, aiutai, pigane, e stiamo andando a farci un giro in moto. Tanto domani torno a travagliare, poi oggi c'è una bella giornata, ma io purtroppo non vedo se uscire, se no mai sarei sceso in campagna, ma però chi si mai rimane riservato. Adesso vediamo, domani mi faccio questa lastra, dovrei finirla giovedì questa cura che sto facendo. La pneumologia non si è andata. pneumologia non si va. No, non bisogna andare, no. Lei, ma già mi sto riprendendo, se non possiamo capri bocca. Fatti i tre carini mi iniziare in gaffuga. Qui te la fa, no? Maranno, ma se non ho niente, vedi. Ehi, alla fanno, pure se parlavo come sto parlando adesso, la fanno proprio quella fanno, come ne ha fatto la sabota che mi ha fregato, io qui sono andato allo stato e mi ha recuperato di giubito, e mi ha messo sotto il sigillo. E la tua volta cosa era? La tua volta, per morire. Però... allora sei soggetto, c'è qualche infiammazione, qualche cosa. No, secondo me da quando mi giuca il suo capo di diabete, perché due settimane fa mi pensavo di bere sui palloncini a casa la sera, ed è per dire mica il camminato, ero in casa, alla sera mi si gonfiavano tutti e due figli, adesso sono già una decina di giorni là, che stanno gonfiando, non lo so, non so, magari l'effetto delle insuline, perché cosa vuol dire? Sarà giù 8 mesi, 9 mesi che sto facendo questa insulina. No, qual è la circolazione del sangue? Quando vedi che sono così devi mettere in alto, tiri e far defluire il sangue, perché si sta fermando il sangue tutto lì, ed è brutto quando si ferma così. Ma viola che si fa? No, no, era appena appena lì, no, ma c'è la bicicletta, ieri mi ho fatto un'esoretta di bicicletta, capito, ti muovi tutti là, che insomma ti muovi tutto. Ma quando si gonfiano è meglio tenerli in alto, le gambe, di modo che defluisca bene il sangue, che si muova, capito? Già lo so già, no, nel letto c'ho due cuscini grandi che metto sul letto mia moglie, no? E per le volte quando mi trampo, qui c'è per darmi la televisione, se pongo il piede innanzi, mi ripongo in alto, allora se pongo l'anche innanzi, non rimangono sospesi. Così va bene. E formicolia te ne viene? No, io lo toccavo in un ricibito per altro gruppo, e me lo sentivo come cosa di buccio di lì. Tutto schiumoso. Ti viene un leggero formicolio, come se fosse il piede addormentato. Mollo, è una sensazione di così gace, però formicolio non me ne viene. Ho la sensazione come che ce l'ho addormentato perché è dubbio, già me la sento. Comunque diglielo al dottore questa cosa che ti sta succedendo. Ma lo dici? Che ti senti questo piede gonfio e cosa? Beh, cosa ti dici? Adesso quando vado dal diabetologo glielo dico, a chi magari io non esapete, mi dice sarà dall'insulina che fai, capi? Lo dico al diabetologo perché l'altra volta sono andato, normalmente cosa mi fa, nelle braccia non mi puoi superare, mi esci tutta sopra, prima me la sto facendo nelle braccia, no? All'altezza del muscolo, o quasi vicino al gomito, lì no. E mi ha fatto il fuoco, si attrecce a sinistra, dove andate che il bambino mi ha dato, sono andato dal dermatologo. E mi ha detto che quello è l'effetto dell'insulina, comunque quando si passa l'altro di sabomata se ne può rifare, la giustura da provare, una di la famiglia, la giudizio, che ha già un regno, ha detto, boh, basta, non me ne posso più. E questo me lo sto facendo nella cuscia, va? Che in pancia te la può fare? Ma cos'è cosa mi succede in panza? Cazzo, mi dà lì, mi fa dei libri di canto un pugno. Anche se la entro proprio sotto pelle. A volte ci sono persone che sono molto delicate, ripeto, che io se prendo un piccolo colpettino subito mi esce il livido. Sembro così, sembro grosso, tutto quanto, e sono molto delicato di pelle. Mi adesso te ne dico una, non c'avevo niente nella mano e nel braccio. A a mezz'ora ci siamo venuti e non mi la discuccio. Faccio una mancia, mi uscita in mano e tre o quattro le braccia. Avanza, ogni minimo colpettino o magari se mi sprego il dito sul braccio, se lo incalzo un po', mi esci la siringata, tutto un ruscio. Si dirica il tuo nome, perché tu pensi che io vado al mare, no? Vado al mare, divento rosso, metto la protezione, tutto quanto, divento rosso lo stesso, lo metto al 50%, immagina, divento rosso lo stesso. Poi aspetto, nella settimana magari si abbassa un po', poi vado al mare di nuovo, divento di nuovo rosso, non abbronzo mai, io divento, poi spello, poi divento rosso di nuovo, e non ho una cosa più forte di me, devo stare attento che non mi vengano le piaghe perché sono molto delicato. Che me lo fa così, però io me lo sto sotto l'ombrellone, anzi un po' di volte mi tengo la maglietta. Non mi metto più al sole, perché me la metto che il sole non le brucio più le ombre. Anche io prediligo l'ombra del sole. Intanto vuoi caso, già per zero ma te si mise sotto l'ombrellone, adesso perché mi ha puttito senza maglietta, sotto l'ombrellone, quando la sera arrivi a casa e vado alla luce, tutto un ruglio. Sì, pure a me, perché i raggi penetrano tutte le parti, i raggi solari oltrepassano. Ma è anche l'aria calda, capito che ti abbronza. Non che stare in acqua, però l'acqua ti abbronzi lo stesso, ma semmeno stai bene al fresco. Quello sì, ma no, quest'anno già ci sono andato al mare, eh? Se per gli altri vanno, ho già bisogno andato quest'anno, l'anno scorso ci sono andato tre volte, quest'anno già ci sono andato un bel po'. Io sono andato un 4-5 volte al Ghero, la Bombarda, Pietra Mogoni, e poi il resto sono stato sempre lì a Stintino. A Stintino, a Pelosa e poi qualche volta sono andato alle Saline, ma non mi piace. Troppe alghe, troppa sporcizia, non ci vado più. No, io sono più andato al Ghero, se no prima andavo lì alla Spalla o lì alla Finestra Muguri, però anche visto che era un casino per i barchini, venivano i laboratori, venivano i vigili urbani, poi avevano messo quel pezzo di terreno che potevi parcheggiare pagabile, poi venivano i bucati, un casino lo facevo con più andato alla Spalla. Cazzo, se devi sciare quattro, ma là chi da voi facciamo il bastiglio, da voi la sera, ma andate lì dove c'è tre ore e mai scini da lì. Sì, è vero. Gli stessi posti li frequento io, quindi lo so come. Adesso non si paga più il parcheggio, non si paga più. Ma quando pagavi si pagava 8 euro tutta la giornata. Già me lo ricordo già, già ci sono andato anni e anni lì a Muguri, lì alla Scala. Allora sì, al prossimo anno vado troppo Valle Luria, nel prolungamento che arrivi in quel rettilineo che c'è la finestra del Francesco, come si chiama quel pezzo, non me lo ricordo. Lì c'è una spiaggia. Scendi giù dalla strada, dalla finestra, si paga 5 euro, mi ha detto mia figlia, va, però ci sono i chioschi, i bagni, e tutto. Allora vado lì e non ci vado più a Zimano, anche a Zimano non ho venuta. Infatti, non ci sono servizi. Era uscito questo passaggio. Ho detto che andavo a San Pietro a mare. Mi sembra che mi ha detto faccio pagarci quello come paghi la strada e poi mi vola che tutto il rettilineo si imbottita in un cassetto di salvio e anche per arrivare lì dunque tanto vale andare là e invece di uscirci là chi da voi paghi la mattessa di quello ma non venuta non per né un bagno neanche di chi si plastica. Né un chiosco, beh un chiosco al primo cancello e lì c'è il mondo, io lì non ci vado mai. No, io ti ripeto, sono andato due o tre volte lì a Pietra Mogoni, ma era un carnaio, molte volte siamo dovuti starcene in pietra perché non c'era posto di spiaggia, e così non mi piace. E allora abbiamo deciso di andare lì, per calmare il carnaio ci andiamo a Sentino, il mare migliore, e poi ti dico una cosa, se arrivi presto non paghi né parcheggio, perché il parcheggio sono a Caluia, e c'è un viottolo che ti porta dritto al mare, quindi non fai manco molta strada. E abbiamo appurato che se tu arrivi entro le 9 c'è tutto lo spazio di voi. Poi comincia ad arrivare la gente, diventa un carnaio, diventano anche maleducati, ti spostano gli asciugamani, fanno guarda, cazzo di quelle cazzate che c'è da bisticciare. Perché noi mettiamo quattro ombrelloni più gli asciugamani tutti attorno, di modo che nessuno si avvicina. Cioè, ti spostano gli asciugamani. No, lì a Cimallo già è bello, è pulita la spiaggia, noi ci piacciamo pure sui gazebo e anche qua sui ombrelloni, ci vediamo un po' di messo mano. E già c'è il posto dove vado io, perché io non vado proprio dove vanno tutti. Io quando arrivo a quella piazzola ci sono quelle case, quella grigia. Che brutta, devo andare piano piano, anche se no che faccio la macchina, che c'ho caso. Ci sono salite, discese, spaccate in mezzo alla strada, brutto, se mi passano trattore e la GP che c'ha il pastore che abita lì proprio vicino all'ingresso del cancello. C'è un muratore e un pastore. Però no, è bello, è pulito, non c'è nessuno, c'è poca gente. Ma se ti tocca la macchina tu ti faccio la coppa di gruzzo e hai fatto la giornata. No, faccio andare piano e vedi l'avvallamento, vedi dopo c'è la pietra, la scarta, io faccio così, c'è la giuvizia un bel femminile con la coppa tarrata, la parcheggia di mezzo all'elba, è nata la rete, con tutti i rossi in terra, più di una ne ho visto questa estate. E poi questa se si vuole a camminare, già sei carico, e si vuole a camminare più di quello, è logico che tocca la macchina. Lì è bello fare, avere un fuoristrada, che è alto, metti 4x4 e vai. Col fuoristrada che è mezzo alto, guarda, ci cammini benissimo, tranquillo, puoi camminare come se ti piace, perché rimane alto. Però l'ultima che ho visto era una percorsa, quelle familiari come si chiamano? Una station vego, Opel, qua dopo il luce in terra, tutto un lago luce in terra, cribata, color blu scuro era, nuova nuova era, cazzo di mezzo macco, poi ci trovi un sacco di gente, quando arrivi in spiaggia lì, perché se poi passi da vicino alla spiaggia, no? Però secondo la macchina c'è, ti si arrena in mezzo alla sabbia, a chi è sabbia, io non ci vado mai, ma infatti preferisco fare tutta quella strada, invece passa dall'interno, perché per passare, però ci vai fuori strada, ma se faccio una macchina normalmente, la Punto, la 1, macchine così, 500, si arreni, infatti tre volte mi è capitato a dargli una mano a bucarne la macchina. Come mi hai descritto la macchina mia, praticamente io la ho per la station vego blu scura, quindi non vanno. No, non ti conviene, anzi, in quel parcheggio, dopo il parcheggio io, ti dico questa, l'ultima volta sono andato, siccome avevamo cambiato posto con mia nipote, mi ha detto siamo più avanti, sono andato io, la sabbia sola, arrivo lì e non vida. Andato a retromarcia, l'ho chiamato al telefono e mi ha detto no, siamo prima, vabbè, adesso giro e vengo lì. Giro e mi si parla la macchina, lui già altro anno, però un casino di gente, non si è degnato nessuno a dirmi, da vuole una mano, niente. Però io vedo tranquillo, ma per il culo ne avevo, io li avevo, io tre fuori già a me ne butti a bene, a dammi una mano. si è levato i tappetini, ho scavato un pochettino, ho fatto, ho messo i tappetini, sta girando la prima, abbiamo un altro lungo e gli sono dici tu, tutti guardando di merda ci sono rimasti. Bisogna sapere queste cose, se no, se non le sai non le fai. Ma io già lo so qui là giubisco di strallazzi, di ieri buoni bici di Daura, gli lascio la Daura a cremare un radiatore, io la cercherò dalla rissa, gente che non ne sappia, ignoranti. E beh, io adesso i tappetini scavi un po' proprio sulla ruota davanti che è sotto, no, la scavi li metti attaccato il tappetino, senti la prima piano piano senza essere veloci, se no si fa la blu, il tappetino si romagna e si ruisa, e ti lasci piano piano piano, e ne esci subito, infatti ne sono riuscito subito. La circostanza di in macchina, io ti tu ti abbattegna, avrai gli annici uguali. Vabbè, l'unica è non accelerare troppo, perché sennò si affonda, è peggio. Molta gente per uscirne prima accelera, e non vi la vale, si affonda, tocca il motore, da inchimi non esci più, e se no vega che dove ti tira, vega che fuori strada, vega che trattore. Già lo so, no, ma io provo a cagito, guardate, appena appena gli anni due che ho messo la prima, piano piano, e invece un cavolo, ma piano mio spuntato, ha continuato ad abbassare, allora mi sono occupato, ma dice, se tu a me non mi butti, la dibucata, il tappeto, se la dibucata, il tappeto, e lì è uscita. Beh, è ok. Beh già, io ti lascio, adesso mi faccio l'aerosol, sino da due salto. Ciao, ce la sentiamo, alla prossimina, salutoni in casa a tutti e buon proseguimento di serata, ciao. Ciao, grazie, auguri di pronta guarigione, là. Speriamo bene che passi tutto in fretta. Ehi, grazie già, mi ha ammazzato, mi ha fatto una passeggiata in macchina, sono conti in chicca, risetti, se no la beve il mondo, mi faccio questa vaffa. Fatti vedere, là, che è meglio, che così sei tranquillo, va. Ciao, buona serata, ci sentiamo. Ciao, ciao.